21, 20:57 per l'esattezza, inizia prove tecniche di trasmissione come ogni mercoledì sera, ormai dal lontano 1992. Spazio dedito all'industrial, all'ambient, al noise, a tutto ciò che significa sperimentazione. 0649 1750 il contatto telefonico, www.onderossa.info per quanto riguarda la possibilità di sentire questa emittente tramite il web e quindi in streaming. Onderossa@onderossa.info e l'indirizzo di posta elettronica. Ricordo che c'è ancora la possibilità di aderire alla nostra campagna di crowdfunding riguardante il radioabbonamento, 30 euro annuali, con le varie modalità elettroniche e non per aderire, modalità che si possono trovare sul sito stesso della radio. Salutiamo Maya e Nicola Locci dalla Sardegna, Dario Arrighi di Progetto No Name dalla Toscana, Cristiano Bocci, anche lui della Toscana, Chemical Resistance, il medico della peste, Daniele della Hellbones Records di Roma, Marco qui a Roma, Lucia Cagliazza, Lupsi da Udine, Tabula Rasa dalle parti di Cortina d'Ampezzo, Emanuele Fais dalle Marche, Sasha Rovelli di Lucesia e non solo, dalla Svizzera, da Bellinzona, Jean-Claude Berthaud dalla Val d'Aosta, Fulvio Biondo di Sorologe, anche lui qui da Roma.